24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che definisce l'euro una conquista irrinunciabile. Per Napolitano la Grecia deve continuare a far parte dell'Eurozona. E per la cancelliera tedesca Angela Merkel l'euro uscirà dalla crisi più forte di prima. Domani l'attesa decisione della Commissione Europea sui fondi ai terremotati del Nord Italia. Oggi vi parleremo delle ultime iniziative ambientali europee, ma soprattutto vi porteremo a vivere il lancio di un satellite comunitario che indagherà proprio su clima e meteo. L'euro è una conquista irrinunciabile e noi siamo decisi a salvaguardarla. Non c'è alcun dubbio anche che la Grecia debba far parte dell'Eurozona e dell'Unione Europea. A dichiararlo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al termine di un incontro ieri al Quirinale con il Presidente greco Papoulias. L'euro uscirà dalla crisi più forte di prima, ha aggiunto la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha invitato però a evitare di fare il passo più lungo della gamba su uno dei progetti di rafforzamento di integrazione appena lanciati proprio in risposta alla crisi. Improbabile, ha affermato la Merkel, che si possa avviare una vigilanza centralizzata sulle banche dall'inizio del 2013, un monito con cui ha ribadito le perplessità già manifestate dalla Germania all'Ecofin nell'ultimo fine settimana. E i listini europei hanno chiuso in rosso a causa di alcune prese di beneficio dopo diverse sedute in rialzo. Nei giorni scorsi, prima la decisione della BCE di acquistare titoli di Stato dei paesi in difficoltà, poi l'ok tedesco al fondo salva stati, infine le nuove misure di allentamento monetario decise dalla Fed avevano innescato un rally su tutte le piazze borsistiche. A Milano il FTSE MIB ha chiuso in calo dello 0,93%. La Commissione europea sta valutando misure di sicurezza da adottare nelle ambasciate dei paesi dove sono scoppiate proteste per il film anti-Islam, a dichiararlo il portavoce dell'alto rappresentante Catherine Ashton, specificando che l'Europa è in contatto con le autorità dei paesi toccati, abbiamo un pacchetto di misure che viene continuamente rivisto. La Commissione europea deciderà domani sul fondo di solidarietà europeo per il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia. L'ammontare della proposta supera i 600 milioni di euro. La decisione sarà presa da Johannes Hahn, commissario europeo alla politica regionale, il servizio di Luisa Perona. Sarà il più grosso intervento di nuovi finanziamenti mai elargito dal fondo di solidarietà dell'Unione europea. 600 milioni di euro gli aiuti previsti a favore delle aree in gran parte situate in Emilia-Romagna, colpite a maggio dal terremoto. La proposta sarà discussa dalla Commissione europea definitivamente mercoledì. Importante punto del dossier è il fatto che Bruxelles abbia riconosciuto nel sisma un disastro naturale di dimensione nazionale. Dal 2002, anno delle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale e della sua istituzione, il fondo è stato utilizzato ben 48 volte e a due giorni dalla riunione della Commissione il terremoto è tornato a farsi sentire. All'1:31 di questa notte ha colpito, senza provocare danni, proprio alcuni piccoli comuni tra le province di Modena e Ferrara. La lieve scossa registrata è stata di magnitudo 2.2. Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è insediato ieri alla Corte di Giustizia Europea con un'udienza solenne il giuramento il giudice italiano che prenderà il posto del dimissionario Enzo Moavero Milanesi, attuale ministro per gli affari europei. Il sostituto si chiama Guido Berardis, ha 62 anni, è già stato alto funzionario della Commissione e consigliere giuridico dei commissari Monti e Bolkestein. E ora apriamo un'ampia pagina sul clima. È in corso l'annuale Settimana Europea della Mobilità, manifestazione che vuole promuovere e premiare le iniziative locali per una mobilità più amica della salute e dell'ambiente. Lo scorso anno a trionfare fu Bologna per le grandi aree pedonali e le numerose iniziative per i ciclisti. L'assessore alla mobilità Andrea Colombo al microfono di Laura Bettini. L'obiettivo per Bologna è ritornare una città di livello europeo, recuperare un ritardo storico che tante realtà italiane hanno e costruire per i nostri cittadini, in particolare per le generazioni future, più mobilità sostenibile, quindi meno macchine e più pedoni, ciclisti e trasporto pubblico nelle nostre strade e piazze. C'era negli obiettivi dell'amministrazione comunale la costruzione di piste ciclabili addirittura per 130 chilometri. Com'è andata in questo anno, insomma, la crescita dei chilometri di pista? Abbiamo messo in attuazione un primo incremento di 10 chilometri che riguarda soprattutto una serie di dorsali ciclabili che dai quartieri dell'estrema periferia portano fino al centro storico. E poi abbiamo lanciato l'idea di una vera e propria tangenziale delle biciclette attorno ai viali della città, perché crediamo che ci sia bisogno di cambiare anche linguaggio e di pensare che la tangenziale non è per forza un'opera in cui ci sono caos, traffico e macchine in coda, ma può essere anche un'infrastruttura green per i ciclisti. 25 anni dalla firma del protocollo di Montreal sul buco dell'ozono. In questi anni molti prodotti chimici che minacciavano lo strato di ozono sono stati tolti dalla produzione. Anna Marino ha intervistato il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Sapevamo che la partita non era tanto di trovare le soluzioni quanto di farle applicare, che non era una partita semplice, perché questo voleva dire cambiare in modo sostanziale una parte importante della chimica, delle produzioni chimiche nel mondo, perché poi questi sono prodotti che non erano soltanto finalizzati agli usi energetici come propellenti, ma erano anche per esempio utilizzati in agricoltura molto. Il bromuro di metile era uno degli antiparassitari più importanti in tutto il mondo. Dunque, convincere i paesi a far entrare nella loro legislazione l'obbligo di eliminare queste sostanze e perciò di cambiare i cicli produttivi, farlo diventare una norma internazionale con evidenti risvolti nelle regole del commercio internazionale, del WTO, tutto questo non è stato semplice, però devo dire che siamo riusciti a fare un'operazione di grande successo. Ecco, quali sono i risultati? I risultati sono che queste produzioni, tranne in alcuni casi per alcuni paesi in via di sviluppo che hanno ancora qualche deroga, le produzioni di queste sostanze sono cessate. Queste sostanze sono state sostituite con prodotti che non hanno quei rischi. Perciò è un caso di successo rappresentativo della capacità di norme ambientali di modificare processi produttivi. Dal lancio del primo satellite meteorologico europeo da parte dell'Agenzia Spaziale sono passati 25 anni. Ieri, con un razzo russo lanciato dalla base di Baikonur, ha raggiunto la sua orbita polare il satellite europeo METOP-B, che con i suoi 13 strumenti di bordo assicura le informazioni necessarie sia sulle previsioni del tempo sia su quelle legate agli sviluppi di lungo periodo del clima. Il sistema meteorologico europeo fa capo al centro tedesco di EUMETSAT. Angelo Rolli ci ha spiegato quanto vale oggi per l'Europa un sistema previsionale accurato. In sostanza EUMETSAT fornisce osservazioni dai satelliti che sono un elemento essenziale per le previsioni numeriche, in particolare del tempo. Quindi non facciamo previsioni del tempo, ma forniamo un input che è essenziale al giorno d'oggi. EUMETSAT vuol dire quante persone raccolte dove? Una rete europea, suppongo. Allora, EUMETSAT come struttura centrale è posizionata qui a Darmstadt, vicino a Francoforte, e ha circa 500 impiegati. Siamo al centro di una rete formata dai servizi meteorologici nazionali che contribuiscono anche con le loro esperienze, le loro necessità ai nostri programmi. Nessun paese europeo ha satelliti meteorologici propri, perché la spesa sarebbe eccessiva anche per i paesi più grandi. Quindi EUMETSAT, la ragione di esistenza di EUMETSAT è proprio di mettere insieme conoscenze e risorse dei vari paesi europei per poter realizzare satelliti meteorologici che sono all'avanguardia nel mondo, sono tra i migliori del mondo. Se non sbaglio, proprio 25 anni fa il primo satellite meteorologico europeo. In realtà l'Europa, diciamo, della meteorologia quantomeno sembra funzionare, è alla grande. E funziona molto bene. Insomma, certo, anche noi sentiamo i risultati di questa crisi economica, è ovvio, però quello che abbiamo la possibilità di dimostrare che i satelliti meteorologici danno un beneficio anche economico molto elevato. Abbiamo dimostrato che circa il ritorno economico di satelliti meteorologici è circa il 20 volte l'investimento fatto, quindi è una spesa che rende. I satelliti costano, lei dice che rendono 20 volte, allora mi dia qualche numero. L'abbiamo fatto degli studi che dimostrano che il ritorno per un investimento come quello di EUMETSAT, di satelliti meteorologici polari, che è di circa 3 miliardi di euro, fornisce un ritorno di circa 60 miliardi nell'arco della vita di questi satelliti. Quindi è un ritorno di 20 volte che tutto sommato non è male di questi tempi. 60 miliardi che arrivano da dove? Dai benefici diretti e indiretti che derivano dalle previsioni del tempo, quindi la possibilità di mitigare i danni causati dal maltempo, la possibilità di utilizzare utilizzare questi dati per attività economica, pensiamo a molti settori economici, non ultimo l'energia per esempio, e l'utilizzazione di questi dati e le previsioni del tempo fatti con questi dati danno questi benefici economici. Era questa l'ultima notizia di 24 ore in Europa, condotto come sempre da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza in regia. Noi vi auguriamo una buona giornata. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.